son guai che non saprai mai risolvere. Stai coi tuoi stili in bocca, c'hai solo polvere. Né Mulder né Scully qui sono chiamati in causa, ma ti scleri che qualcuno metta in pausa. Il mouse fa click, il basso, il beat. Per fortuna mi è rimasto questo tic. Veste di colori, il suono che mi avvolge. Teste delle situazioni in cui coinvolge. Ed oggi un giorno in cui ragioni sul tragitto, giri nelle vie percorse senza mai girarti indietro. Mai ritrovi il punto da cui sei partito, solo grossi forse d'oltre a luce buio tetro. Mitragliato dalle idee di tutti, vedi frutti di ascoltare soldi ciechi e muti. I belli e i brutti, quelli in piedi e quelli già caduti, quelli seri e quelli stupidi e cornuti. Ognuno diverso, ma importanti tutti, hanno dato un verso al tuo tragitto. Ora immerso in questo suono, all'amore sparso in vita. Amore sparso. Amore sparso. Amore sparso. L'amore sparso non è lo sparso, è in generale che inteso come sparso, scherzo ha un peso. Sarà da marzo, mi è apparso in visione, vedevo a sprazzo un mazzo e mezzo di persone di tante età, tante razze d'usi, pazze varietà che spaziano rinchiusi. Spesso in se stessi, stessa catalessi, cessami stressi, prassi da depressi. E invece amore sparso accendi come il fuoco, incendi e lascia tutto arso, inondaci non poco. Accendi e chiamaci, tu musica, risanaci, mettici in condizioni di capirci, sgamaci. Vibrazione donaci, quegli unici giorni magici. Agisci come il 13, per la fortuna amaci. Luna ospita anche i lunatici, in cima al cielo ci sei tu, più questi suoni metrici, ermetici. Amore sparso.